Noi predisponiamo quanto abbiamo per l'accoglienza dei turisti che vorranno scegliere Casteldaiano come meta di soggiorni o anche di semplici escursioni o gite. Fortunatamente la pandemia ci ha lasciato un po' di segni, ma sembra, come in tutta Italia, in via, non diciamo di estinzione, ma di attenuazione molto forte. Praticamente sono già diverse settimane che non abbiamo più contagi noi, quindi siamo quasi un comune free. Un comune COVID free, certo. COVID free. Questa situazione ci ha dato anche modo di riflettere e di pensare, ad esempio, di passare le proprie vacanze, le proprie ferie in luoghi magari vicini che non conoscevamo. E Casteldaiano è un luogo pieno di storia, di natura e di tante opportunità. Cosa offre il vostro territorio? Anche per noi è stata una sorpresa l'estate scorsa, quando siamo stati praticamente sommersi dal turismo di prossimità e abbiamo capito che le risorse che per noi erano scontate per molti sono novità e vengono molto apprezzate. In primis l'ambiente: noi abbiamo una fitta rete sentieristica che cerchiamo di mantenere in efficienza, che permette agli escursionisti o a camminatori o bike o anche a cavallo di apprezzare scorci che sono particolari dell'Appennino ma sono unici nel loro genere. A questo uniamo sicuramente un complesso di impianti sportivi di primo ordine per un comune di queste piccole dimensioni, oltre alla possibilità di fare le attività tipo il turismo equestre, la pesca sportiva, eccetera. A fianco di questo, diciamo che si sta risvegliando anche quello che è l'enogastronomia, con la riapertura di alcuni agriturismi o ristoranti tipici. In Appennino poi si mangia bene, quindi è anche un'occasione, appunto, anche magari per un weekend, una gita fuori porta. Il vostro comune è interessato molto anche dalla storia, no? Cioè dalla Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che a livello di edifici storici si sta ultimando il ripristino dell'abbazia di Santa Lucia, che praticamente ha una cripta dell'anno 1000. Abbiamo altre emergenze e abbiamo, per sfortuna, scontato un lungo periodo di quella che fu la linea gotica, che noi stiamo cercando di mettere in risalto con, ad esempio, abbiamo un plastico multimediale che racconta gli eventi degli ultimi mesi dell'evento bellico, oltre a varie riscoperte delle infrastrutture che erano state create proprio per l'evento. Le volevo chiedere una cosa rispetto alle feste. Insomma, vedo che da voi c'è la festa del Borlengo, si possono tenere anche, appunto, perché le sagre in passato sono state, diciamo così, limitate proprio a causa della pandemia, invece si svolgeranno? Siamo alla finestra per capire in che modalità si potranno svolgere e quali potremo fare. Ecco, proprio siamo in attesa di avere le regole precise per poter ripristinare tutto quello che era la nostra serie di manifestazioni, a cominciare dalla due giorni della festa del Borlengo, che è una tipicità delle nostre zone, e poi le varie manifestazioni. Erano molto rinomate le nostre manifestazioni di fuochi d'artificio, avendo qui un'azienda ormai che è un'attività secolare, quindi cerchiamo di poter riproporre le nostre sagre, tipo la festa dei vini che facevamo, oppure le varie sagre paesane delle varie frazioni. È vero che siete uno dei comuni dell'Appennino bolognese più in alto? Casteldaiano è il cosiddetto municipio più alto della provincia di Bologna, perché con i suoi 806 metri è superiore a tutti gli altri. Quindi, insomma, si sta al fresco d'estate? Sì, qui l'afa, diciamo, è questa sconosciuta. Non conosciamo proprio, se non proprio quei momenti, in qualche ora della giornata, ma la notte si dorme tranquillamente da noi senza condizionatore. E quindi, allora, io la ringrazio, invito anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a visitare anche i siti che parlano delle opportunità di Casteldaiano. Tutte le informazioni le possono trovare sul nostro sito istituzionale oppure su casteldaianotrekking.it.